Non, avanti le istruzioni. Nella tua casina, farò una vittoria. Parlo di una presenza, essere umano che eres. Solo una marionetta, come le gana al topo. Oh, my God.